dell'altra Europa. La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi proporzionali ai pericoli che la minacciano. Così il 9 maggio 1950 il ministro francese degli affari esteri Robert Schuman con questa dichiarazione diede origine al processo di integrazione europea e così il 9 maggio è diventata la festa d'Europa. Buon sabato da Federico Taddei e benvenuti all'Altra Europa. Siamo qui, come sempre, dagli studi di Radio 24 per respirare cultura europea e quello che facciamo con il nostro programma in collaborazione con il network Euronet, www.euronet.eu. E oggi andiamo a festeggiare anche noi l'Europa, andiamo a raccontare quello che accadrà in occasione della festa, che è un appuntamento simbolico, però come tutti gli appuntamenti simbolici, anche l'occasione per fare così un punto dello Stato, per fare una sorta di verifica, per enfatizzare anche parole, tematiche che magari invece vengono annacquate durante l'anno. Quindi è proprio l'occasione per fermarci, guardare la nostra Europa, guardarla anche magari con occhio critico e cogliere così l'occasione da tutti gli spunti, da tutte le iniziative che vengono organizzate in tutta Europa e in particolare in tutta Italia. E vogliamo iniziare entrando proprio nel cuore dell'Europa, e lo facciamo a modo nostro, cioè lo facciamo con chi nelle istituzioni ci lavora, e siamo infatti in collegamento con Giacomo Fassina, che è assistente nel gabinetto del Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz e responsabile per le relazioni con i media del Mediterraneo. Una storia tutta italiana, una storia tutta italiana che però ci porta nel cuore d'Europa. Ciao Giacomo, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno Federico. Ciao. Hai 26 anni, sei giovanissimo e un curriculum che tutti ti abbiamo invidiato leggendolo. Intanto complimenti a prescindere. Grazie. Allora, sappiamo qual è il tuo punto d'arrivo, quindi sei assistente nel gabinetto e ci spiegherai fra pochissimo cosa significa. Raccontaci però quello che è stato anche il tuo percorso, così per fare questo piccolo viaggio nel tempo con te. Sì, il mio percorso è effettivamente molto, molto italiano, quindi non sono figlio di eurocrati o di coppie internazionali, quindi sono nato a Padova, ho studiato lì al liceo classico e poi ho avuto la fortuna di essere selezionato per andare a questa scuola internazionale che si chiama Collegio del Mondo Unito, che consiglio a tutti i giovani ascoltatori collegamento con te. È un'istituzione che raggruppa ragazzi da tutto il mondo, più di 80 nazionalità, e a cui si può accedere solo attraverso una borsa di studio. Mm-hmm. E ci sono 12 di questi collegi in tutto il mondo. Io sono stato inviato a Duino e lì è stato per me veramente il primo momento di apertura al mondo esterno. È stato anche molto più facile poi riuscire ad andare a studiare all'estero, e quindi lì sono riuscito ad andare a studiare storia moderna e politica all'Università di Oxford. E poi da Oxford già avevo sviluppato un interesse per l'Unione Europea e ho proseguito i miei studi con un master al Collegio d'Europa, che ha due sedi, una a Bruges e una a Natolin, a Varsavia, in studi europei. E poi dal Collegio d'Europa sono venuto direttamente qui a Bruxelles. Mm-hmm. a cercare fortuna. Ok. Sappiamo anche di un anno sabbatico vendendo olio d'oliva in giro per l'Europa, ho capito bene? Sì, è vero, assolutamente. tra la fine della triennale a Oxford e l'anno al Collegio d'Europa ho preso un anno, per così dire, sabbatico. Volevo imparare il francese, quindi sono andato a Parigi. Ho trovato questo lavoro in una boutique di prodotti mediterranei in cui si vendeva principalmente olio d'oliva, e questa passione in realtà per l'olio d'oliva mi è rimasta molto a cuore e ancora cerco di coltivarla. A tempo perso. E invece adesso, appunto, sei nel cuore del Parlamento europeo, lavori a fianco di Schulz. Cosa significa? Qual è il tuo ruolo in particolare? Io ho iniziato lavorando con il presidente del Parlamento precedente, che si chiama Jerzy Buzek. Sì. È stata un'esperienza interessante in quanto lui è stato il primo presidente del Parlamento europeo proveniente da uno degli stati dell'Europa centro-orientale. E poi ho proseguito con il nuovo presidente che è Martin Schulz, che è più conosciuto in Italia per le vicende del 2003 e il suo confronto con Berlusconi. E sono due stili molto diversi. Il presidente Schulz è molto più diretto e il presidente Buzek è stato molto più conciliatore. Sì. Il mio lavoro in particolare è abbastanza diverso. Mi occupo di programmazione dell'agenda di stampa del presidente, di monitoraggio dei media e relazione con i media del Nord Africa e Medio Oriente. Ed è particolarmente importante per il presidente in questo momento, in quanto presiede la presidenza di turno dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, che è il forum dei parlamentari delle due sponde del Mediterraneo, che vuole servire come luogo di incontro politico e istituzionale per l'Unione Europea e per i paesi arabi, quindi, del Nord Africa e del Medio Oriente. E quindi il tuo è di fatto un lavoro preparatorio, cioè studi, analizzi? Preparatorio, preparo briefing, preparo comunicati stampa che poi vengono visti, approvati dal Presidente, preparo dei punti di riflessione per le prestazioni, per i testi che il Presidente preparerà e consegnerà, preparo gli incontri con i giornalisti. Mm-hmm. In realtà è un lavoro che cambia molto di giorno in giorno. Mm-hmm. E bisogna anche reagire agli eventi certo, immediati, quindi, ogni giorno. Assolutamente. Sì. L'altra Europa. Eccoci qua ancora con l'altra Europa in questa puntata interamente dedicata alla festa dell'Europa. Siamo in collegamento da Bruxelles con Giacomo Fassina, assistente nel gabinetto del presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz. Giacomo, hai 26 anni, abbassi un po' l'età media di chi lavora lì, spero, nel senso sì. Che è vero che noi in Italia siamo abituati che a 26 anni uno già se fa lo stage e viene applaudito. Beh, io ho fatto la mia buona parte di stage sia in quell'anno sabbatico di cui sì. Abbiamo parlato, sia prima di entrare nel gabinetto del presidente Buzek. Però sì, sicuramente sono stato fortunato e un po' precoce nel riuscire ad avere un lavoro nel gabinetto, quindi credo di essere più giovane. Non ho controllato in tutto il gabinetto, sono effettivamente il più giovane, però credo di essere uno dei più giovani. Giacomo, come si al di là del curriculum, al di là delle competenze, al di là degli studi, il tuo è un ruolo anche dove insomma bisogna conquistarsi la fiducia. Tu come l'hai conquistata la fiducia con il presidente precedente, con Schulz attualmente? Ma è un sia attraverso i rapporti occasionali con la stampa, nella discussione di punti, dipende molto dall'attitudine del presidente. È di solito lui che viene a chiedere l'opinione dei suoi assistenti, perché nonostante abbiano sia il presidente Schulz che il presidente Buzek una grande preparazione e un'esperienza professionale di lunga data, non possono essere esperti su tutti i dossier e quindi valutano assieme ai loro assistenti e chi li circonda qual è la posizione migliore da avere su un punto particolare. Certo. Poi per esempio col tempo si solidificano queste relazioni e io con il presidente Buzek alla fine del gabinetto lo accompagnavo in vari viaggi. Sono stato con lui nell'ultimo viaggio nel Collegio Europeo di Parma, ho scritto il discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico, a lui è molto piaciuto, il discorso poi è stato pubblicato su una rivista, per cui sono degli elementi che col tempo si vanno solidificando e consolidando, una relazione che si consolida nel tempo. Ecco, Giacomo, dal tuo osservatorio privilegiato, anche grazie al ruolo che hai, che significato ha per te la festa d'Europa? Beh, per me è una festa fondamentale nel comprendere quello che noi pensiamo sia il significato di essere europei. E secondo me deve essere vissuta in maniera non banale, quindi dobbiamo in primo luogo comprendere che l'Europa non è un'istituzione, è un luogo in cui che bisogna prendere per scontato, ecco, che la nostra, che la pace in Europa è stata effettivamente una conquista importante. Certo. Però secondo me bisogna anche pensare soprattutto al futuro, essere rivolti al futuro e pensare quale sia il significato di essere europei oggi e quale sarà il futuro, il significato di essere europei domani. In questo senso a me premeva fare una riflessione sul significato di cittadinanza europea e il fatto che molto spesso noi non ci rendiamo conto di quanto già l'identità europea sia qualcosa di presente e consolidato, se pensiamo per esempio a valori come opposizione alla pena di morte, all'impossibilità di portare armi. C'era un aneddoto di Timothy Garton Ash, che mi sembrava il sociologo inglese, sì, che mi sembrava interessante sottolineare, quando dice che perché vivere in Europa piuttosto che in America? Perché in Europa è più difficile che ci sparino, e nel momento in cui qualcuno ci spara possiamo essere curati gratuitamente. Ecco, questi sono degli elementi che già non dovremmo dare per scontati nel considerare quello che è il valore della cittadinanza europea. Certo, fare l'Europa, fare l'Europa un valore nostro, ma soprattutto a sentirci europei, che è comunque uno scarto culturale fondamentale, soprattutto guardando il futuro, soprattutto guardando altre aree del mondo, che è quello che fai tu quotidianamente. Sì. Giacomo, grazie davvero, buona festa, in bocca al lupo per il lavoro, a te e a tutto il tuo team. So che siete in tanti, siete affiatati e il lavoro non vi manca. Ciao e buon sabato, grazie. Grazie, ciao Federico. Europost-it. La festa dell'Europa a Milano. Milano celebra l'Europa il 10 maggio al Teatro Franco Parenti, trasformato in una stanza delle meraviglie dall'associazione Ragna Rock, che ha organizzato la festa. Una stanza dedicata ad ognuno dei grandi padri fondatori dell'Europa, dove i ragazzi delle scuole e i cittadini milanesi possono imparare e capire cosa ha spinto questi grandi pensatori e politici a mettere insieme gli sforzi verso un'Europa unita. Ogni stanza è dedicata anche ad un'arte. Musica, cinema, arti figurative e letteratura guidano e suggestionano i visitatori per mostrare quali sono i valori che tengono unita l'Europa. Non mancano le conferenze per capire cosa possiamo imparare dagli altri nostri fratelli europei più virtuosi, come Green Economics, Green Mobility, al Palazzo delle Stelline l'11 maggio. Trovate tutto su ragnarock.eu. Questi sono i nostri Europost-it che potete ritrovare poi sulle nostre pagine di Facebook, facebook.com/l'altraeuropa, oppure su Twitter, le segnalazioni con i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare, @ Federico Taddeo, oppure sul nostro sito radio24.it. La festa dell'Europa che casualmente arriva anche in una settimana dove l'Europa potrebbe in parte cambiare faccia, sarà un'Europa forse diversa a quella che si sveglierà lunedì mattina. Perché? Perché questo è un weekend elettorale importante, ci sono elezioni fondamentali, parliamo della Germania, parliamo della Grecia, parliamo della Serbia, parliamo anche dell'Italia, un'Europa che è un'Europa fatta dalle singole nazioni, fatta anche dai singoli orientamenti, quindi un'Europa che si prepara anche a questo banco di prova importante per capire cosa accadrà domenica, ma per capire soprattutto quelli che possono essere scenari possibili, scenari diversi. Abbiamo invitato chi l'Europa la conosce bene, perché la legge, la sfoglia, la analizza con i quotidiani ogni giorno. Diamo il ben ritrovato a Gianpaolo Accardo, con direttore di Press Europe, ricordiamo www.presseurope.eu, questa sorta di rassegna stampa quotidiana per leggere, per capire, per conoscere l'Europa. Ciao Gianpaolo. Ciao Federico. Un weekend tosto quello che ci aspetta domani. Mamma mia. È vero? Sì, guarda, sì, negli Stati Uniti hanno il Super Tuesday delle primarie, ma qui abbiamo il nostro bravo, la nostra brava Super Domenica. Infatti, domani sarà una domenica tutta da seguire. Cosa ci aspetta? Non vogliamo fare previsioni di voto, non è questo che ci interessa, è capire gli scenari. Beh, diciamo che comunque lo scenario che si delinea è quello di una tendenza di lungo corso ormai da quasi un anno, cioè i partiti al potere sembrano essere sfidati e destinati a subire una specie di smacco, perché le politiche, come dire, mainstream applicate in questo momento dai governi in Europa sono abbastanza contestate, e questo lo vedremo probabilmente molto in Grecia, dove i cittadini avranno la loro prima occasione di esprimersi sulle politiche severe di austerity adottate dopo l'esplosione della crisi, che ha rischiato di far sprofondare il paese e di farlo uscire dall'euro. Secondo gli ultimi sondaggi, insomma, i partiti tradizionali, quelli che guidano la politica greca da più di 40 anni, il Partito Socialista e Nuova Democrazia, non dovrebbero superare il 40%, ora hanno oltre i due terzi dei voti di solito, e questo si farà a beneficio dei partiti, dovrebbe farsi a vantaggio dei partiti estremisti a sinistra come a destra. A sinistra il Partito Comunista è dato in grande ascesa, ma soprattutto a destra sono dati in netto progresso dei partiti estremisti, come in particolare Alba Dorata, Chrissi Avgi, un partito che si può definire praticamente neonazista e che sta raccogliendo molti consensi e dovrebbe fare il suo ingresso in Parlamento. Questo secondo quanto ci racconta Kathy Merini, un quotidiano economico molto serio di Atene. E se Nuova Democrazia, quindi il principale partito della destra, volesse andare al governo, sarebbe costretto a fare alleanze anche con questo tipo di partiti. Addirittura Chrissi Avgi, Alba Dorata, accusava il Laos, che è il partito diciamo tradizionalista ortodosso della destra religiosa, di essere troppo moderato e di essersi venduto ai partiti principali. Quindi insomma la tonalità dello scontro è molto dura. Tra l'altro, Gianpaolo, quindi anche lì un voto votato all'antipolitica, però ecco, sfogliando i quotidiani della Grecia c'è sfiducia, che è un po' la parola che ha accompagnato in questi mesi il popolo greco. Beh, diciamo che il sentimento che traspare i quotidiani sono di solito comunque abbastanza moderati, quelli di orientamento, anche quelli conservatori o quelli di sinistra, sì, sono abbastanza moderati e continuano a sostenere che per il futuro della Grecia sarebbe meglio che i partiti tradizionali comunque non fossero completamente spazzati via, perché poi si aprirebbe un periodo di incertezze. Certo, la Grecia avrebbe, cioè il nuovo governo avrebbe un mandato forte per rinegoziare alcune delle condizioni che sono state fissate dalla Troica, Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale, per aiutare la Grecia, però si aprirebbe molta più incertezza che se i partiti tradizionali, dei quali più o meno si sa quali sono le linee, fossero certo di nuovo al potere. Questo è più o meno quello che traspare dalla stampa. E poi dalla Grecia ovviamente passiamo alla Francia, andiamo in Francia. Il futuro dell'Europa passa da queste elezioni di domani? Sono probabilmente quelle più cruciali di questo fine settimana. I sondaggi sembrano abbastanza univoci nell'indicare che François Hollande dovrebbe spuntarla con tra il 53 e il 54% dei voti contro il 46-47 al presidente uscente Nicolas Sarkozy, e se dovesse vincere Hollande molte cose cambieranno in Europa, perché anzitutto Hollande ha detto e ha ripetuto che vorrebbe innescare una revisione del patto di bilancio che aveva negoziato Sarkozy con Angela Merkel, il patto di bilancio che lui considera troppo vincolante e troppo un freno alla crescita. Lui vorrebbe rinegoziarlo in quella direzione, e in questo potrebbe avere un sostegno in diversi altri paesi europei, a cominciare dall'Italia, e poi a continuare con la Spagna, probabilmente anche con la Grecia, insomma con i paesi che sono stati più sottoposti a misure di austerity rigide. Questo però ha suscitato anche questa ipotesi ha suscitato anche delle preoccupazioni un po' dappertutto in Europa, soprattutto presso la stampa più conservatrice o più liberista, a cominciare dal porta stendardo del liberismo in Europa, che è The Economist nella sua ultima copertina aveva definito François Hollande l'uomo più pericoloso d'Europa. Ecco, senza usare mezzi termini. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa, una puntata dedicata alla festa dell'Europa, ma non si può parlare questa settimana d'Europa senza andare a toccare quelle che sono le elezioni di questa domenica elettorale, la Grecia, la Francia, ma anche la Serbia e anche la Germania. Per avere un'analisi globale a 360 gradi con noi c'è Giampaolo Accardo, condirettore del portale Press Europe. Allora Giampaolo, la Serbia, anche queste elezioni importanti, elezioni cruciali in previsione futura? Sì, in Serbia si vota per le legislative e anche per le presidenziali, perché il presidente Boris Tadic, il cui mandato sarebbe dovuto scadere l'anno prossimo, ha deciso di rimetterlo in gioco nello stesso momento in cui si disputano le legislative, e Tadic, che ha guidato fino adesso la Serbia verso l'Unione Europea, infatti la coalizione che guida si chiama Per una Serbia Europea, figurati, il presidente quindi Boris Tadic è al testa a testa, secondo gli ultimi sondaggi, con il suo avversario conservatore e abbastanza populista, se si può dire, Tomislav Nikolic, entrambi secondo il quotidiano Danas, un quotidiano di Belgrado abbastanza moderato, sono al 22%, quindi insomma se la giocano proprio sul filo di lana. Bisogna dire che a Bruxelles preferiscono una leggera preferenza per Tadic, perché appunto lui che ha portato la Serbia a diventare ufficialmente stato candidato all'adesione, mentre Nikolic aveva all'inizio di quest'ultima legislatura una posizione più scettica. Ora ci spiega ancora Danas, ha preso una piega più eurofila, comunque insomma diciamo che in Europa preferiscono leggermente Tadic, anche per un altro motivo. Tadic sul Kosovo ha una posizione molto più moderata, non è più disposto a fare una battaglia per negare l'indipendenza del Kosovo, mentre Nikolic è su posizioni un po' più severe, e il Kosovo è un punto di discordia nel processo di adesione all'Unione Europea. Assolutamente. In Germania invece elezioni piccole, ma anche queste importanti. Sì, elezioni regionali nel Land dello Schleswig-Holstein, quello che confina con la Danimarca. Anche qui, insomma, secondo i sondaggi, il partito di Angela Merkel, il Partito Cristiano Democratico, che è attualmente il primo partito, dovrebbe subire una leggera flessione, e a vantaggio del Partito Socialdemocratico, che è attualmente all'opposizione in Germania, che era il secondo partito, dovrebbe diventare il primo. Ma quello che è interessante dovrebbe essere, sempre sì, i sondaggi si confermano, la conferma di una tendenza di lungo corso ormai in Germania, che è l'affermazione del partito pirata, sì. Che a Berlino ha ottenuto un successo straordinario nelle ultime municipali, e che ovunque si voti ormai in Germania si afferma come il quarto o quinto partito, spesso superando anche il 10% dei voti, e questa tendenza dovrebbe confermarsi anche nello Schleswig-Holstein. E quindi insomma anche queste sono elezioni regionali, ma sono elezioni elezioni da guardare con attenzione. Gianpaolo, grazie davvero come sempre per questa analisi a 360 gradi. Si leggerà, secondo te, della festa dell'Europa sui quotidiani europei nei prossimi giorni? Guarda, se ne leggerà, ma temo che verrà sopraffatta dalle analisi sulle conseguenze del voto in tutti questi paesi. Certo, e vi consiglio davvero come sempre di leggere Press Europe, perché è una lettura globale per capire veramente l'Europa dov'è e dove sta andando. Ciao Gianpaolo, grazie, buon lavoro. Ciao Federico, anche a voi, ciao. Buon sabato. Europost-it. Un mese d'Europa a Firenze. La città di Firenze celebra l'Europa addirittura per un mese. Per ricordarci quanto è importante essere parte della comunità europea e quanto siano importanti i valori che tengono questa Europa unita, la città ospita Maggio d'Europa 2012, un insieme di eventi, workshop, festival, spettacoli e conferenze. Un evento certamente da segnalare è quello che si terrà il 9 e il 10 maggio 2012 nello storico Salone dei 500 di Palazzo Vecchio, che ospiterà la seconda edizione della conferenza The State of the Union, organizzata dall'Istituto Universitario Europeo. Lo scopo della conferenza è quello di riunire insieme personalità di alto profilo delle istituzioni europee e nazionali e il mondo accademico ed economico, per dar vita ad un dibattito sullo sviluppo e il futuro dell'Unione Europea. Tra i tanti nomi importanti parteciperanno alla conferenza José Manuel Barroso e Olli Rehn, presidente e vicepresidente della Commissione europea, il presidente del Consiglio Mario Monti e Michel Barnier, commissario per il mercato interno e di servizi. Ulteriori informazioni su comune.fi.it e stateoftheunion.eui.eu. E questa è una delle tante iniziative in programma nella rassegna fiorentina Maggio d'Europa 2012, tante iniziative per festeggiare l'Europa, in particolare il 9 e il 10 maggio lo storico Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze ospiterà la seconda edizione della conferenza The State of the Union, e ci sarà una conferenza con José Manuel Barroso, il presidente della Commissione europea, Mario Monti, il presidente del Consiglio della Repubblica Italiana e tanti altri ospiti. Il sito per tutte le iniziative italiane è quello della Commissione europea, ec.europa.eu/italia, ma tutti questi link li potrete trovare anche nelle nostre pagine in Facebook. In particolare però, come avete ascoltato dal nostro Europost-it, la novità di quest'anno e questa iniziativa è intitolata Liquid Lab, e con noi c'è il direttore creativo Daniele Lauria. Ciao Daniele, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Buongiorno. Cosa vi siete inventati? Che cos'è questo Liquid Lab? Beh, è un'occasione di incontro tra tante persone, tante realtà che in tutta Italia da sempre, in particolare negli ultimi tempi, credono che creatività applicata, innovazione, ricerca siano le parole chiave per uscire dalla crisi e per generare crescita, come dire, fuori dai luoghi comuni e dalle formule facili. Tante persone, che professionisti, aziende, enti, istituzioni, si ritroveranno a Firenze per discutere di come dovranno essere le città del futuro, di come vogliamo che cambi il mondo del lavoro, di come rimettere in gioco le energie dei giovani. Creatività più innovazione uguale lavoro, questa è la formula magica che cercherete di portare, ma soprattutto cercherete di vedere, no, quelle che sono già le opportunità presenti. E in tutto questo l'Europa diventa il luogo ideale per sviluppare questa formula? Direi di sì, perché siamo europeisti convinti, pensiamo che l'Europa, al di là di quelli che siano i vincoli di bilancio, le norme, le regole che condizionano i singoli paesi, sia una grande opportunità, rappresenti una grande opportunità. Non a caso, e grazie proprio all'intervento della Commissione europea, della rappresentanza in Italia, organizziamo con Liquid Lab alcuni focus che secondo noi sono importanti per capire in che modo l'Europa ci può venire incontro. Il primo giorno, il 9 maggio, proprio in sé, nella serata, organizziamo un incontro che presenta il bando Europa Creativa.

Capisce? Certo, no, è fondamentale. E la guida anche, perché lì c'è il direttore, c'è chi deve guidare questa unione, credo. Ma che guardi, serve la visione. Anche sì. Fatto una metafora meravigliosa, cara, sì. Foncare, sì. Che il direttore è come gli stormi d'uccelli, mm-hmm. che vanno senza una guida precisa, però vanno in una direzione e così è la musica, e chi fa la musica ha una specie di istinto per andare in una direzione, e il direttore non ha neanche bisogno di guardare, è un fluido magnetico che si trasmette senza la parola, è qualcosa di terribile, non so se mi spiego. No, è la suggestione, è l'emozione anche che passa in questa guida istintiva. Buona festa dell'Europa, maestro, e grazie per essere stato in nostra compagnia. Salve, buon sabato. That's the river, my friend. Yeah. Londra e Istanbul sono per me i due estremi di un mondo legato dall'acqua. La percorrerò, proteggendola e lasciandomi trasportare su di essa. You're a call from Northwest, so I'm trying to prepare a tea and just resist. The boat is swinging and my shade is swinging from my part. Beh, e in questa puntata dedicata alla festa d'Europa non potevamo non parlare di chi l'Europa la sta attraversando. L'abbiamo già conosciuto lo scorso anno nella prima parte di questo viaggio che è partito da Londra, ma l'avventura continua e sta ripartendo proprio in queste ore. Destinazione Istanbul, 2500 chilometri in barca sono stati fatti, ne mancano 2600, sono state attraversate 344 chiuse, 16 ponti sospesi, 8 tunnel, il ghiaccio finalmente ha di nuovo liberato la barca e Giacomo De Stefano è di nuovo in acqua, lui, man on the river. Ciao Giacomo, ben ritrovato. Ciao Federico, ciao a tutti i radioascoltatori e grazie. Dove sei? Sono a Budapest, sul Danubio, che è molto alto, c'è molto vento, adesso è a favore dopo giorni di vento contrario, e stiamo mettendo un po' a posto la barca perché il ghiaccio quest'estate ha fatto piccolissimi danni, quindi qualche piccola, il legno, sai, mm-hmm. è delicato, bisogno di amore e di cure. Inghilterra, Francia, Germania, Slovacchia e Ungheria le hai lasciate alle spalle, adesso c'è l'altra parte d'Europa, quella che ti porterà a Istanbul. Che Europa hai visto? Ci avrai pensato tanto? E soprattutto che Europa ti aspetti nelle prossime migliaia di remate? È una bella domanda. L'Europa che ho visto è una Europa legata da questo grande paese che si chiama Danubio, Reno, Meno e i canali francesi, Tamigi. E sono realtà connesse, tu vedi le differenze architettoniche, le lingue cambiano, però le sensazioni che hai è proprio di una fortissima coesione, di un'armonia anche, cosa che adesso è difficile un po' da intravedere in questa Europa che è abbastanza sull'orlo di un tracollo. I fiumi proprio unificano, questo era anche un po' il mio intento, verificare, capire, imparare e poi riportare alle persone attraverso il sito, il documentario, quello che sta succedendo adesso. Anche nella parte del viaggio che sto per iniziare, cioè la parte dell'est, sì. Che inizia proprio a entrare già adesso in una chiave quasi di follia, di bellezza, che per noi è un po' diversa da tentare di comprendere. È il fiume dei Balcani, ecco. Mm-hmm. I film di Kusturica, le musiche di Bregovic, i Gitani, i Rom. Spero di trovare un altro tipo di coesione, perché in realtà tutte queste differenze uniscono, è un po' come l'acqua, no? Esatto. Viaggi su questo fiume ed è un'autostrada bagnata, come qualcuno, forse Magris l'ha definita, che unifica, che non divide. Era il confine, il Danubio, come il Reno dell'Impero Romano, però in realtà ti rendi conto che le persone alla fine parlano la stessa lingua. L'acqua è il tuo tua compagna di viaggio e le persone che incontri, questa contaminazione continua tra uomo e acqua, che è un po' veramente il cuore del tuo viaggio, della tua esplorazione, perché non mi piace chiamarla impresa, la tua è veramente è un viaggio, no? Metro dopo metro. Certo. Con che spirito stai ripartendo? Ma io sono sempre più convinto che sto andando troppo veloce. Lo spirito è questo, che questo in realtà è un viaggio che è una vita, proprio una metafora a tre dimensioni della vita. Io e il fiume è la vita, e quello che scorre intorno è quello che ci succede. Sono felice, come quando sono sull'acqua sono un'altra persona, perché forse il 70% dell'acqua che in me, come in tutti, va in risonanza con quella che c'è intorno. Sì, questa è l'energia che ti accompagna. Menontheriver.com è il portale dal quale seguirti giorno per giorno, bellissime foto, video, dichiarazioni, testimonianze, e anche noi tenteremo di seguirti ogni tanto per sentire la voce del tuo viaggio, la voce della tua acqua. Ciao Giacomo, buona avventura. Grazie Federico, e saluti a tutti. Un abbraccio. Be water. A te. E grazie a voi come sempre per essere stati in nostra compagnia, e grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa, Margherita Ine, Viola Frifa, che con me hanno scritto la puntata, Peter Bescapè oggi alla parte tecnica, Alessandra De Luca che ha dato la voce ai nostri post-it. Radio24.it è il sito dal quale da lunedì ci potete riascoltare e trovare tutti i link di cui abbiamo parlato oggi. Ancora buon sabato e buona Europa da Federico Tardia.